Mercato in grande salute, più di 1 miliardo di euro di fatturato con una crescita vicina al 40% rispetto all'anno prima. Si dice che questi siano numeri di crescita tipici dei mercati non ancora maturi, ma si dice anche che il mercato del videogioco sia oramai un mercato maturo. Io ritengo che il mercato del videogioco non sia assolutamente ancora maturo. È un mercato che forse era maturo per un singolo segmento, di videogiocatori, i più giovani, ma è un mercato che invece si sta allargando a macchia d'olio anche sul target femminile, sul pubblico femminile, che prima videogiocava pochissimo, piuttosto che su fasce di videogiocatori o di consumatori più anziani. Quindi è un mercato in grandissima espansione. In Italia ci sono quasi 60 milioni di abitanti, quanti videogiocano? Purtroppo ancora una piccola percentuale, però essendo ormai il target delle aziende dei videogiochi non più il teenager o il ragazzino, riteniamo che la potenziale del mercato sia assolutamente ancora da esplorare. Possiamo cercare di dare agli ascoltatori un numero per capire quanti sono gli italiani che utilizzano i videogiochi? In valore assoluto non ho un numero preciso, ti posso dire che però ci sono più di 8 milioni di famiglie in Italia che hanno al loro interno hanno una console e dato secondo me significativo che dà una dimensione dell'ampliamento del mercato, l'anno scorso quasi 1,5 milioni di famiglie che non avevano mai videogiocato si sono portate in casa una console. Abbiamo citato le console, allora qual è il ruolo delle console nel mondo dei videogiochi oggi in un mondo che fino a qualche anno fa conosceva prevalentemente i giochi per PC? È un ruolo assolutamente predominante, perché mentre il PC è uno strumento per sua natura rivolto a qualcuno che ha conoscenza con la tecnologia, la console non necessariamente. La console è uno strumento per entrare in contatto con lo strumento ed è uno strumento straordinario per consentire anche, passami il termine, l'alfabetizzazione tecnologica della famiglia. Spesso all'interno di famiglie che non hanno la minima conoscenza della tecnologia, la console è il modo per cominciare a entrare in contatto con un mondo digitale che per loro altrimenti sarebbe lontanissimo. Il mondo online comincia ad essere importante oppure è ancora molto marginale? È al momento ancora marginale, ha una sua dimensione, ma non è sicuramente né quella che traina il mercato né quello che lo rallenta.